Ora, la principessa di Parma, la quale non aveva troppa simpatia per Madame d'Épinay, che trovava brutta, sapeva avara e credeva, sulla parola de Courvoisier, cattiva, riconobbe il vocabolo redazione che aveva sentito pronunciare da Madame de Germain e che lei, da sola, non sarebbe riuscita a utilizzare. Ebbe l'impressione che il bello di Taquin il Superbo stesse in effetti nella redazione, e pur senza accantonare la sua antipatia per quella donna brutta e avara, non poté impedirsi di provare, per una persona che dominava così bene lo spirito de Germain, un tale sentimento d'ammirazione da desiderare di invitarla all'opera. La trattenne solo il pensiero che, forse, prima sarebbe stato opportuno consultare Madame de Germain. Quanto a Madame d'Épinay, la quale, decisamente diversa dai Courvoisier, faceva mille vezi a Oriane e le voleva bene, ma era invidiosa delle sue relazioni e un po' indispettita che la duchessa si prendesse gioco di lei davanti a tutti a proposito della sua avarizia, raccontò, tornata a casa, come la principessa di Parma avesse stentato a capire Taquin il Superbo e quanto Oriane dovesse essere snob per avere tanta intimità con una simile oca. «Non avrei potuto frequentare la principessa di Parma neanche se l'avessi voluto, perché il signor d'Épinay non me le avrebbe mai permesso a causa della sua immoralità», confidò agli amici che aveva a pranzo, alludendo a certe esuberanze puramente immaginarie della principessa. «Ma, anche se avessi avuto un marito meno severo, confesso che non ce l'avrei fatta. Non capisco come Oriane resista a vederla regolarmente. Io ci vado una volta all'anno e faccio fatica ad arrivare alla fine della visita». Quanto ai Courvoisier, che si fossero eventualmente trovati da Victurnien al momento della visita di Madame de Germain, l'arrivo della duchessa li metteva per lo più in fuga, a causa dello stato di esasperazione in cui li gettavano gli smaccati salamelecchi riservati a Oriane. Uno solo era rimasto il giorno di Taquin il Superbo. Non afferrò del tutto la facezia, ma a metà sì, perché era istruito. E Courvoisier andarono diffondendo la notizia che Oriane aveva chiamato lo zio Palamed Tarquinio il Superbo, il che, secondo loro, lo rispecchiava piuttosto bene. «Ma perché fare tutte quelle storie per Oriane?» aggiungevano. «Non si sarebbe fatta tanta scena nemmeno per una regina. In fondo, chi è Oriane? Non nego che Germant siano d'ottimo ceppo, ma i Courvoisier non sono certo da meno, né per antichità, né per lustro, né per parentele. Non bisogna dimenticare che al campo del Drappo d'Oro, quando il re d'Inghilterra chiese a Francesco I quale dei signori presenti fosse il più nobile, «Sire», rispose il re di Francia, «è Courvoisier». D'altronde, anche ammettendo che tutti i Courvoisier fossero rimasti, le battute di Oriane li avrebbero trovati assolutamente insensibili, perché gli incidenti da cui, in genere, esse prendevano spunto apparivano loro sotto una luce affatto diversa. Se, per esempio, capitava che una Courvoisier s'accorgesse di non avere abbastanza sedie per un ricevimento o chiamasse una visitatrice non avendola riconosciuta con un nome sbagliato, o un domestico le si rivolgesse con una frase ridicola, la Courvoisier, oltremodo infastidita, rossa in volto, fremente d'agitazione, deplorava siffatti contrattempi. E quando aveva visite e aspettava Oriane, si informava, in tono ansiosamente e imperiosamente interrogativo, «La conoscete?», temendo, se qualche visitatore non l'avesse conosciuta, che la sua presenza facesse a Oriane una cattiva impressione. Madame de Germant, invece, traeva da incidenti del genere l'occasione di racconti che facevano ridere i Germant sino alle lacrime, tanto che si era costretti a invidiarla per non avere avuto abbastanza sedie, aver fatto o lasciato fare a un domestico qualche gaffe, aver accolto in casa sua un perfetto sconosciuto, così come si è costretti a rallegrarsi che i grandi scrittori siano stati tenuti a distanza dagli uomini e traditi dalle donne, dal momento che le loro umiliazioni e sofferenze sono state, se non il pungolo del loro genio, perlomeno la materia dei loro libri. Non più capaci erano i Courvoisier di innalzarsi sino allo spirito di innovazione che la duchessa di Guermantes introduceva nella vita mondana, facendone, grazie a un sicuro istinto con cui l'adeguava alle necessità del momento, qualcosa di artistico, mentre l'applicazione puramente razionale di una rigida normativa avrebbe dato risultati non migliori di quelli che otterrebbe chi, inseguendo il successo in amore o in politica, riproducesse alla lettera, nella propria vita, le imprese di Bussy d'Amboise. Se i Courvoisier davano un pranzo di famiglia o un pranzo per un principe, l'aggiunta di un uomo di spirito o di un amico del figlio sarebbe parsa loro un'anomalia suscettibile di produrre i peggiori effetti. Una Courvoisier, il cui padre era stato ministro dell'imperatore, dovendo dare un ricevimento in onore della principessa Matilde, dedusse, per esprit de géométrie, che poteva invitare solo bonapartisti. Ora ne conosceva pochissimi. Tutte le donne eleganti del suo giro, tutti gli uomini gradevoli, furono messi implacabilmente al bando, giacché, con le loro idee o relazioni legittimiste, sarebbero potuti risultare, secondo la logica dei Courvoisier, indigesti all'altezza imperiale. Questa, che riceveva nel suo salotto la crema del Faubourg Saint-Germain, fu abbastanza stupita di trovare da Madame de Courvoisier soltanto una celebre scroccona, vedova di un ex prefetto dell'impero, la vedova del direttore delle poste e alcune persone note per essere tanto fedeli a Napoleone III quanto stupide e noiose. La principessa Matilde non lesinò per questo il generoso e dolce sfavillio della sua grazia sovrana, elargendola a quei mostri calamitosi che la duchessa di Guermantes, da parte sua, si guardò bene dall'invitare quando venne il suo turno di ricevere la principessa, sostituendoli, senza alcun ragionamento a priori sul bonapartismo, con la più alta concentrazione di tutte le beltà, di tutti i valori, di tutte le celebrità che confidava, nella sua inimitabile sintesi di fiuto, tatto e destrezza, potessero riuscire graditi alla nipote dell'imperatore, quando anche appartenessero alla famiglia stessa del re. Non mancò nemmeno, in quell'occasione, il duca d'Aumale, e quando, al momento di ritirarsi, la principessa, rialzando Madame de Guermantes, che faceva la riverenza e voleva baciarle la mano, la baciò su entrambe le guance, fu dal profondo del cuore che poté assicurarle di non aver mai passato una giornata migliore né assistito a una festa più riuscita. La principessa di Parma era a Courvoisier quanto all'incapacità di innovare in materia sociale, ma a differenza dei Courvoisier, la sorpresa provocatale di continuo dalla duchessa di Guermantes suscitava in lei non già un senso d'antipatia, bensì d'ammirazione. Tale stupefazione era ulteriormente accresciuta dalla cultura quanto mai arretrata della principessa. La stessa Madame de Guermantes era assai meno avanzata di quanto non credesse, ma le bastava essere più avanti di Madame de Parme per sbalordirla, e poiché ogni nuova generazione di critici si limita a capovolgere le verità riconosciute dai suoi predecessori, se solo affermava che Flaubert, questo nemico dei borghesi, era essenzialmente un borghese o che c'era molta musica italiana in Wagner, schiudeva già la principessa, a prezzo di un perenne affaticamento, come a chi nuoti nella tempesta, orizzonti che le sembravano inauditi e le rimanevano indistinti. Stupefazione, d'altronde, che non la coglieva solo di fronte ai paradossi aventi per oggetto opere d'arte, ma anche di fronte a quelli concernenti persone di loro conoscenza e avvenimenti mondani. L'incapacità da parte di Madame de Parme di distinguere l'autentico spirito dei Germain dalle sue rudimentali forme derivate, il che l'induceva a credere nell'alto valore intellettuale di certi e soprattutto di certe Germain, di cui poi, con grande sconcerto, sentiva la duchessa parlarle, sorridendo come di perfetti imbecilli, era una delle cause dello stupore nel quale la principessa piombava regolarmente ascoltando i giudizi di Madame de Germain sulle varie persone. Ma ce n'era un'altra, e io, che a quei tempi conoscevo più libri che esseri umani e la letteratura meglio del mondo, me la spiegavo pensando che la duchessa, immersa in quella vita mondana, la cui oziosa sterilità sta a un'autentica attività sociale come in arte la critica alla creazione, estendesse ai componenti della sua cerchia l'instabilità di punti di vista, la sete malsana dei cavillatori, i quali, per alleviare l'aridità della loro mente, vanno in cerca di un paradosso qualsiasi, purché sia ancora abbastanza fresco, e non si peritano di sostenere la dissetante opinione che la più bella Ifigenia è di Piccinni e non di Gluck, e magari, all'occorrenza, che la vera Phèdre è quella di Pradon. Se una donna intelligente, istruita, spiritosa, aveva sposato un timido cafoncello che si vedeva poco e non si sentiva mai, Madame de Germain, un bel giorno, si inventava la voluttà spirituale non solo di screditare la moglie, ma di scoprire il marito. Per esempio, se i due Cambremé fossero vissuti allora nel suo ambiente, avrebbe decretato che lei era una stupida e che, in compenso, la persona interessante, misconosciuta, deliziosa, ridotta al silenzio da una donna invadente che valeva mille volte meno di lui, era il marchese, e la duchessa avrebbe provato, nell'affermarlo, lo stesso genere di sollievo del critico che, dopo 70 anni passati ad ammirare Hernani, confessa di preferirgli Le Lion Amoureux. Per effetto dello stesso bisogno morboso di novità arbitrarie, se si compiangeva sin dalla giovinezza una donna modello, una vera santa, per il suo matrimonio con un poco di buono, un bel giorno Madame de Germain dichiarava che il poco di buono era un uomo leggero, ma pieno di cuore, spinto ad autentiche sconsideratezze dalla durezza implacabile della moglie. Non ignoravo che, non soltanto fra un'opera e l'altra, nella lunga serie dei secoli, ma persino all'interno di una singola opera, la critica si diverte a ricacciare nell'ombra ciò che rifulgeva da troppo tempo e a farne emergere ciò che sembrava condannato alla definitiva oscurità. Non solo avevo visto Bellini, Winterhalter, gli architetti gesuiti, un ebanista della Restaurazione installarsi al posto di geni che venivano fatti passare per stanchi semplicemente perché se n'erano stancati, come son sempre stanchi e instabili nevrotici, gli oziosi intellettuali. Avevo visto preferire in Sainte-Beuve, volta a volta, il critico e il poeta, rinnegare Musset come autore di versi, a parte qualche breve brano affatto insignificante, per esaltarlo come narratore. Alcuni saggisti hanno sicuramente torto quando mettono al di sopra delle più celebri scene del Cid o del Polyecte una certa tirata del Menteur che, come una vecchia mappa, fornisce ragguagli sulla Parigi dell'epoca. Ma questa loro predilezione, giustificata se non da ragioni estetiche, perlomeno da un interesse documentaristico, è ancora troppo razionale per la critica folle. Questa darebbe tutto Molière per un verso dell'Étourdi, e pur trovando noiosissimo il Tristano di Wagner, ne salva un bel passaggio di corni quando risuona la caccia. Tale depravazione mi aiutò a capire quella di cui dava prova Madame de Guermantes quando decideva che un uomo del loro mondo, riconosciuto come uno sciocco di buon cuore, era un mostro d'egoismo più acuto di quel che si credeva, che un altro, noto per la sua generosità, era il simbolo stesso dell'avarizia, che una buona madre trascurava i suoi figli e che, in una donna ritenuta viziosa, albergavano i più nobili sentimenti. Corrotte dalla nullità della vita mondana, l'intelligenza e la sensibilità di Madame de Guermantes erano troppo oscillanti perché il disgusto non succedesse ben presto in lei all'infatuazione, salvo sentirsi nuovamente attratta dal genere di spirito che aveva via via ricercato e respinto, e perché il fascino che aveva trovato in un uomo generoso non si mutasse se lui la frequentava troppo, se le chiedeva qualcosa che lei era incapace di dargli, in un'irritazione che credeva provocata dal suo ammiratore ed era effetto, invece, solo dell'impotenza a provare piacere in cui ci si dibatte quando ci si limita a cercarlo.